30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Gli Stati Uniti temono che l'Arabia Saudita, il principale paese esportatore di petrolio, non abbia riserve di oro nero a sufficienza per evitare l'escalation dei prezzi. Lo rivelano alcuni documenti riservati dell'ambasciata statunitense di Riyadh, diffusi da Wikileaks e ripresi dal quotidiano britannico Guardian. Secondo i cablogrammi redatti tra il 2007 e il 2009, Washington dovrebbe prendere in seria considerazione l'avvertimento lanciato da un ex ministro del governo saudita, Sadat al-Husseini, convinto che le stime sulle riserve di greggio siano state gonfiate di oltre 300 miliardi di barili, vale a dire di circa il 40% del totale. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Insomma, l'Arabia Saudita è in riserva e lo nasconde. I suoi mega pozzi sotto le sabbie del grande deserto sono molto meno pieni di oro nero di quanto la monarchia di Riyadh voglia farci credere. Quali sono le implicazioni? Perché tutto questo è così importante in chiave, diciamo, strettamente americana? Ne parliamo questa sera con Marco Magrini, inviato del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Allora, innanzitutto, tu che giri diciamo il mondo tenendo d'occhio temi che sono ambientali ma dunque energetici per forza, questa voce, questa idea che i sauditi stiano giocando, diciamo, coi barili è presente di già nell'ambiente? Ma sì, assolutamente da anni. Per esempio, risale a 3 anni fa un libro scritto da un banchiere texano-americano, Matt Simmons, intitolato Twilight in the Desert, dove diceva che sosteneva giusto appunto che le riserve di petrolio saudite sono ben lontane da quello che ufficialmente il regno saudita dichiara. Ovviamente è difficile andare a vedere nelle profondità di quell'enorme paese, ma un dato è chiaro, è che l'Arabia Saudita è il primo produttore mondiale di petrolio da ormai decenni, e tanto per fare un esempio, come sosteneva Simmons, Ghawar, il pozzo, il giacimento petrolifero più grande del mondo, che è situato lì, è in produzione dal 64, quindi ovviamente tutto questo ragionamento parte dal fatto che qualsiasi giacimento a un certo punto, dopo essere stato sfruttato, arriva a un tetto, dopodiché comincia a declinare. E questo sta già succedendo in molti giacimenti del mondo, non soltanto in Arabia Saudita, però le preoccupazioni vengono dal fatto che finora quel paese ha giocato il ruolo di paese cuscinetto, cioè essendo notoriamente un alleato degli Stati Uniti, per decenni ha manovrato i propri rubinetti per evitare che i prezzi del petrolio andassero troppo in alto. E questo è il suo ruolo strategico. Insomma, un ruolo di equilibratore di fatto di nazione che, a seconda delle circostanze, nelle fasi di crisi più complesse, di fronte ad eventi di politica internazionale, anche in questi giorni vediamo che sulla scena internazionale africana non mancano, interviene per stabilizzare la situazione. Ecco, ma perché, se questo è il suo ruolo, Riyadh si presta a giocare con dei numeri che in qualche modo potrebbero poi esplodergli letteralmente in faccia? Ma dunque, devo fare una premessa. I cablogrammi rivelati da Wikileaks risalgono al 2007. Ci sono due osservazioni da fare, cioè che dal 2007 a oggi l'Arabia Saudita ha continuato a pompare 9 milioni di barili di petrolio il giorno, e sottolineo questo il giorno. Mi fa piacere ricordare, se qualche ascoltatore non lo sapesse, che un barile è fatto da 159 litri di petrolio, quindi veramente un oceano di greggio che esce ogni giorno da quel regno. Dall'altro lato però, questo va onestamente detto, le tecnologie di scavazione, per esempio per scavare molto più profondamente e anche orizzontalmente, stanno continuando a migliorare, quindi anche negli ultimi 4 anni sono migliorate e sono andate avanti, per cui in teoria questo potrebbe compensare in qualche modo la quantità di petrolio che viene recuperato dal sottosuolo. Hai detto 9 milioni di barili al giorno per circa 1000 giorni, che anche qualcosa di più, che sono 3 anni, siamo vicini ai 10 miliardi di barili in un triennio. Ecco, le riserve indicate vengono mantenute stabili, allora o abbiamo imparato in maniera diversa, in maniera magari più costosa, ad attingere, hanno imparato i sauditi in particolare, ad attingere sotto il loro deserto, oppure di nuovo i numeri non tornano. Sai, bisogna tenere conto del fatto che spesso non ce ne rendiamo conto, ma il mondo del petrolio che fa girare il mondo cambia continuamente. Faccio un esempio: in questi giorni stiamo parlando del prezzo del Brent, che è sopra a quello del WTI americano in questo periodo di tensioni in Medio Oriente. Peccato che il pozzo che dà il nome a questo al petrolio che viene dal Mare del Nord, appunto, giusto appunto il pozzo Brent, praticamente non produce più petrolio da svariati anni, cioè ha già raggiunto il picco negli anni 90 e da allora ha cominciato a scendere sempre di più. Questa ovviamente è una realtà che preoccupa i cosiddetti teorici del picco del petrolio, cioè il picco vuol dire il giorno in cui il petrolio arriverà alla massima produzione possibile, dopodiché declinerà. E questa è una realtà con la quale il mondo deve fare i conti. Non a caso attualmente noi stiamo consumando qualcosa di più di 90 milioni di barili di petrolio il giorno, incluse le domeniche, tanto per intendersi, però il greggio, cioè quello, il cosiddetto petrolio convenzionale, quello facile da recuperare, nell'immaginario appunto dell'Arabia Saudita, che quando facevano un buco il petrolio zampillava, ecco, questo genere di petrolio, il cosiddetto petrolio convenzionale, potrebbe già aver raggiunto il picco. E questo molto francamente è quello che mi ha raccontato appena un mese e mezzo fa Nobuo Tanaka, il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, che ho incontrato a un summit delle Nazioni Unite poco tempo fa, che diceva che a suo parere il picco del petrolio convenzionale è già arrivato. Ecco, cosa c'è dopo il picco? Perché chiaramente, come dire, il pendio può scendere in vari modi. C'è un'idea a proposito? Sì, però prima vorrei spiegare un attimo il fatto che il mondo sta compensando questo declino del petrolio convenzionale con il petrolio non convenzionale, ovvero il gas liquefatto, il carbone liquefatto, e i petroli extra pesanti, per esempio quelli venezuelani, e diciamo la star del momento è il petrolio che viene estratto dalle sabbie bituminose del Canada, che è, diciamo, un sistema molto molto più complicato di quello che può avvenire in Arabia Saudita, perché in due parole si tratta di radere al suolo la foresta boreale, scavare la sabbia che c'è lì sotto, riscaldarla con il vapore, ovvero usando metano e acqua, e dopo altre due raffinazioni arrivare al petrolio. Ecco, questo ci fa vedere che il mondo sta già attingendo a delle risorse di petrolio non convenzionale molto molto più difficili e molto molto più costose da estrarre. Un petrolio, insomma, più difficile, più complicato, che apre anche a nuovi scenari internazionali. Marco Magrini citava il gas liquefatto, i petroli bituminosi del Canada, quindi, come dire, sposta anche la nostra testa verso il nord, verso la Russia, verso il Canada, paesi che nella storia, almeno del Novecento petrolifero, in realtà sono stati toccati solo marginalmente da questo fenomeno. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donnelly, bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Insomma, l'ipotesi che l'Arabia Saudita sia in riserva petrolifera e lo nasconda non è nuova, ma riemerge in queste settimane anche sull'onda appunto di uno dei cablogrammi di WikiLeaks ripresi dalla stampa internazionale. Questa sera ne parliamo con Marco Magrini, inviato del Sole 24 Ore. Insomma, Marco, stavamo costruendo un po' un'immagine, una fotografia della situazione attuale. Un elemento importante, ci dicevi, era la distinzione tra il vecchio e il nuovo petrolio. Di che si tratta? Semplicemente il fatto che il cosiddetto petrolio convenzionale, quello facile da recuperare, potrebbe già aver raggiunto il picco. Magari non l'ho ancora fatto, lo farà quest'anno, però sicuramente lo scenario cambia in maniera drastica. Ecco, cosa c'è oltre questo picco secondo gli esperti, secondo il parere degli esperti che hai raccolto appunto girando il mondo? Ma sai, ovviamente dipende da con chi si parla, perché se parli con i geologi che teorizzano appunto il disastro del picco del petrolio imminente, questo vorrebbe dire che effettivamente nel giro di poco tempo la produzione petrolifera mondiale crolla. Ovviamente ci sono un sacco di altri esperti che non sono d'accordo con quest'ipotesi, non perché neghino il fatto che le risorse convenzionali siano arrivate a un punto che potrebbe assomigliare a un tetto, ma perché hanno una grande fiducia nelle risorse non convenzionali che, come accennavamo prima, il gas liquefatto, il carbone liquefatto, le sabbie bituminose del Canada o roba del genere, e sostanzialmente hanno fiducia anche nel fatto che lo sviluppo tecnologico renderà possibile ciò che oggi non lo è. Magari molto più costoso, magari più complicato, ma comunque in grado, come in fondo molti ritengono siamo sempre stati capaci di fare, di trovare una soluzione laddove la situazione dovesse essere più critica. Insomma, questi due scenari. Esatto, cioè nel bene e nel male il dramma che al quale abbiamo assistito l'anno scorso nel Golfo del Messico, di quella piattaforma che stava scavando a chilometri di profondità sotto il mare, la piattaforma della BP chiamata Deepwater Horizon, che tutti ricordiamo, è un po' un sintomo di questo fenomeno. Cioè stiamo andando oltre il limite, perché il petrolio facile è già stato recuperato o quantomeno è già conosciuto e sfruttato, e bisogna, come dire, alzare l'asticella. Molto francamente le profondità raggiunte da quella sfortunata piattaforma l'anno scorso erano impensabili soltanto 5 anni fa. E poi, come accennavi tu prima, ci sono anche probabilmente degli scenari che si aprono, sì, di natura geologica, ma anche di natura geopolitica. Per esempio, si dà per scontato che nell'Artico ci sia ancora un sacco di petrolio da recuperare, e questo ci porta a un sacco di preoccupazioni geopolitiche, perché l'Artico è sostanzialmente diviso fra la Russia, il Canada, gli Stati Uniti con l'Alaska e la Danimarca con la Groenlandia, e già, come sappiamo, ci sono delle tensioni fra questi paesi su chi, quando e come sfrutterà quei giacimenti, ovviamente senza tenere conto minimamente delle preoccupazioni di natura ambientale, che non sono soltanto il rischio di una perdita nel mare gelato dell'Artico, ma anche il fatto, come ben sappiamo, che il mondo dovrebbe in teoria, o almeno è quello che dicono tutti i paesi dell'OCSE, dovrebbero diminuire l'uso dei combustibili fossili per ragioni ambientali, nel senso per evitare un'escalation del riscaldamento climatico. Marco, a proposito di scenari, l'Artico certo rimane sullo sfondo, 14 milioni di chilometri quadrati, è una misura formidabile, a volte si fatica a immaginare l'estensione appunto dei fondali, peraltro quasi sempre in acque poco profonde, e quindi della battaglia che di fatto per ora si è solo annunciato. Ma veniamo a scenari, diciamo, più presenti. Mi riferisco di nuovo all'Africa, siamo vicini all'Arabia Saudita, al cuore della produzione, c'è un paese che si chiama Sud Sudan per adesso, che di fatto sta nascendo, sarà proclamato in luglio. Ecco, lì da solo sono in ballo qualcosa come la terza riserva petrolifera africana. Quindi great game, grandi gioco intorno alle riserve. La sensazione è che nei prossimi anni assisteremo di fatto a un rafforzamento della battaglia per assicurarsi il rubinetto appunto di queste riserve, tutto questo con la presenza di nuovi protagonisti ormai conclamati e molto attivi, mi riferisco ovviamente a Cina, India, Brasile in primo luogo. Sì, con una grande differenza, che il Brasile è il paese che ha scoperto più giacimenti negli ultimi 10 anni, infatti l'industria petrolifera brasiliana è veramente in un momento di boom, le loro risorse sono soprattutto offshore, quindi nel mare, con tutti i rischi e le implicazioni che dicevamo prima, perché sono in acque profonde. Tutto al contrario è la posizione della Cina, perché la Cina, che dispone praticamente di tutte le materie prime del mondo fuorché il petrolio, ha già messo da tempo, e devo dire con incredibile lungimiranza, le mani sull'Africa, perché tutti i progetti, i maggiori progetti di sviluppo nei paesi africani, soprattutto quelli con risorse naturali, sono nettamente targati Cina. Marco, ancora un paio di minuti abbiamo per parlare insieme, diciamo, intorno a questa notizia che ci ha dato l'AMA. Io vorrei parlare di energie alternative, nel senso che siamo nel 2011, tu ti occupi da anni di fonti alternative d'energia, le hai raccontate in molti tuoi servizi. Ecco, oggi ci ritroviamo di fatto a parlare di petrolio. È ancora di fatto la nostra energia di riferimento. Il resto che cos'è oggi? Ovviamente assistiamo in tutto il mondo a un boom degli investimenti in energie rinnovabili. Mi piace sottolineare che il paese più avanti in questa attività è senza alcun dubbio la Cina, che non soltanto deve proteggere il suo futuro energetico, perché ecco, forse ci siamo dimenticati di dire che qui stiamo parlando di un punto di flessione nelle riserve disponibili proprio nel momento in cui il mondo, la domanda di energia sta crescendo anche grazie alle economie emergenti. L'AIE stima che rispetto ai 90 milioni di barili che usiamo oggi ne avremo bisogno di 110 nel 2030-2035. E quindi, come dire, è ovvio che il mondo, per questioni ambientali, per questioni strategiche e mi piacerebbe dire anche per questioni di sicurezza internazionale, di pace internazionale, ha bisogno di scommettere sulle energie rinnovabili. Lasciami dire questo, che proprio in questo momento negli Stati Uniti c'è una battaglia politica, perché Barack Obama vuole togliere gli sgravi fiscali alle compagnie petrolifere, e mi sono trovato davanti a dei dati recenti 2008, dove si vede che i sussidi del governo americano ai combustibili fossili ammontano a 72 miliardi di dollari in un triennio, mentre quelli alle energie rinnovabili a 29. Quindi tutti dicono, sento spesso dire, le energie rinnovabili non stanno economicamente in piedi, solo se finanziate, eccetera eccetera. La verità è che in tutto il mondo i sussidi alle energie fossili continuano a essere ben maggiori, e questo francamente, visto che i sussidi tanto in Iran, dove la benzina costa 28 centesimi di euro al litro, tanto negli Stati Uniti, dove la benzina costa la metà che da noi per via di una agevolazioni fiscali. Fiscali, eccetera, eccetera, come dire, tutto questo è incompatibile con il futuro dell'energia. Grazie a Marco Magrini, già incompatibile con il futuro dell'energia, forse anche con il futuro, punto. Grazie a Marco Magrini per essere stato con noi questa sera, Filippo Aureggi in regia, siamo in conclusione, vi ricordo solamente radio24.it per sentire, risentire tutti i nostri programmi. 30 minuti in cronaca, torna sabato prossimo, buon fine settimana.